altre cose guardar noi ci dobbiamo, da troppa tirannia, dall'incostanza e dalla gelosia. Il tirannico impero poco dura, ciascun fuggir procura da un incostante cuore, e sdegno fa de gelosia e furore. Onde perché si serbi la cara libertà che noi godiamo, fide, caute, pietose esser dobbiamo. Libertà, libertà, cara, cara libertà, libertà, libertà, cara, cara libertà, bel piacere, bel godere che libertà dormi dà, libertà. Cerco e bramo. Nostro poter, nostra beltà risplende quando più adoratori ci recano in tributo i loro cuori. E se libere siamo, libera amar potiam chi noi vogliamo. Libertà, libertà, cara, cara libertà. Con le smorfie i vezzi gli uomini non si fanno cascar morti per fare alle compagne insulti e torti. Faccia ognuna suo senno, ognuna si conduca come vuole, finché la libertà goder si puole. Libertà, libertà, cara, cara libertà. Il diverso parer che nelle varie nostre menti risulta pensar mi fa che utile più saria introdurre fra noi la monarchia. D'una sola il governo farsi potrebbe eterno, e in questa guisa se una femmina sola impera e regge, tutti avranno osservar la stessa legge. Non mi spiace il pensier, ma chi di noi esser atta potria a sostenere la nuova monarchia? Quella che ha più giudizio, quella che ha più consiglio, che sa con più prudenza e rigor porrinoso e la clemenza. L'impero si conviene a femmina che sappia con dolci di pietà suavi frutti in catene tener gli uomini tutti. Anzi a colei che fiera sul femminile soglio degli uomini frenare sappia l'orgoglio. Facciam così, ciascuna si proponga di noi, ciascuna ai voti il proprio nome sponga, e il trono eccelso in Dio quella si dia, e da voti maggiori eletta sia. Io l'accordo, io l'accetto, a noi si porga l'urna e i lupini. Ed io, poiché la prima fui a proporre il nobile progetto, prima m'espongo e i vostri voti aspetto. Non so se lei tossia per amla, può valutare anch'io. Questa volta senz'altro il regno è mio. Manifesto che mi fate. Libertà, libertà, cara, cara libertà. Per quello che si vede e che si sente, ognuna donna consente all'altra star soggetta, e ognuna piace il comandar sovrano, e soggiogarle si procura in vano. Procurerò con l'arte il dominio ottenere, a loro dispetto il regno occuperò. Con l'arte usata senza mostrare orgoglio giungerò forse ad occupare il soglio. Or si sciolga il consiglio, vada ciascuna esercitar l'impero sopra i vassalli suoi, e libero il regnar resti fra noi. Io affetti d'amore, di disdegno, d'amore. circondato dalla calamità che l'uomo di lontane tira ed invita. E questa calamità non è già un'opinione, ma ogni donna ne tiene la sua porzione. La terra, la terra, qui morte e guerra, ma sempre pace goder si può. Ridono, loro non credono, no, no.

Dido, ad Cesar, ad Nir. Non mi posso veder compagno attorno che senza il merito mio vogliono comandar come fo io. Ecco Giacinto, o deve seguire il mio disegno o sarà il primo a sostenere il mio sdegno. Cinzia, mio amor, mio nome, suora di Citarea, mia sovrana, mia dea, eccomi tutto vostro, vi domando perdono e a voi mi prostro. E ben siete pentito d'avermi disgustata, mia bellezza adorata, tanto pentimmi e tanto ch'ho lavata la colpa in mar di pianto. Mi amate voi? Vi adoro. Siete mio? Vostro sono. Ogni errore passato io vi perdono. Oh cara, oh me contento, balzare il cor per il piacer mi sento. Come state di coraggio e bravura? La gran madre natura m'ha fatto l'alto onore di donarmi un bel volto ed un gran cuore. Mi piace il paragone. Se bravo come è bene, sarò un poltrone. Su, parlate, esponete, comandate, imponete. Armato ai vostri cenni il braccio mio, svenerà se fia d'uopo il cieco Dio. Nulla è difficile a un cuor che è tutto facile. Voi prendete questa spada. Ecco l'accetto. Mi passerò se lo bramate il petto. Pur di sangue virile io non ho sete. Voi uccider dovete in questa città nostra 100 donne e non più per parte vostra. Come? Donne svenar? Se voi ciò farete, mio sposo al fin sarete e me corregnerete. E quando mai ricusasse d'obbedire al mio precetto, vi passerò con questa spada il petto. Ah, signora! Signora, per dirla, non vorrei morire ancora. Dunque che risolvete? Ci penserò. Dovete risolver tosto. O dire donne il sangue, o rimanere per le mie mani esangue. Piuttosto che morire, con pena io vi rispondo. Tutte le donne ammazzerò del mondo. Badate non tradir. Ve l'assicuro. Giurate. Sulla mia beltà lo giuro. Se sarete fedele, se voi m'obbedirete, ma un certo non so chi mi piace. esser dovrò crudele per piacere al mio bene. Sì, sì, si faccia, si svenino, si uccidono queste nemiche femmine. Ma piano per mia fe, se uccidessero poi le donne me, vorrei, ma non vorrei, sono fra il sì ed il no. Penserò, studierò, risolverò. Come? Giacinto armato? Ecco la prima a cui dovrò ferire il seno. Ah, che se la rimiro, io vengo meno. Parla fra sé, pavento di qualche tradimento. Or su, vivo il coraggio, con un colpo improvviso l'ucciderò senza mirarle in viso. Giacinto! Ah, bella voce! Che fate voi? Non so. Mi volete svenare? Signora, no! Che fate di quel brando? Sono un novello imitator d'Orlando. Dove? Non posso! E perché mai? Perché non posso dire, perché giurai? Oh, crudele, spietato, sconoscente, ingrato, mi conosco ventendo. Forse di cinzia per gradir l'affetto, mi volete cacciar la spada in petto. Oddio! Via, traditore, se avete tanto cuore, traffiggetemi pure, eccovi il seno. Ah, che non posso più, già vengo meno. Or questa spada è mia. Pietà, per cortesia. Cosa mi riteneste? Ero la vita in dono. Giacintino, io vi perdono. Basta sol che mi dite chi vi die questa spada e da qual fine. Non posso dire. Ingrato, io vi dono la vita e un leggero favore voi mi negate. Voi volete che io muora? Ah no, fermate, tutto dirò. Cinzia volea. Basta così, che rea Cinzia sola sarà. Voi tutto amore siete bello di volto e bel di cuore. Ah, non merito da voi della vostra bontà si belli effetti. Io sono mortificato, sono e non so che dire, sono incantato. Io non lo posso, no. resistere mi pulso. Mi sento il cale, il cale, mi spante, mi spante. Dubito tutto, mi guarda, resistere. Ma non so, ma mi so, resistere. Sento favellar di morte, il cor mi batte in seno forte forte. Ah, oh, misera ch'io sono, amo un ingrato che per me non sente né timor né pietà. Cinzia ha trovato chi volea secondare il suo disegno, ed io di giusto sdegno acceso vanamente, in vendicata rimanere dov'io son disperata. Ma cosa dovrei far? Con questa spada passare a Cinzia il petto. E non altro? Non altro. Al fin non è gran cosa per un uomo mazzar femmina in belle. Queste lo dico anch'io, se son bagattelle. Dunque avete risolto? Non lo so. Risolvere conviene. Risolverò. Perché non accettate questo impegno addirittura? Perché, a dirla, ho un pochino di paura. paura d'una donna. L'ho provata e so cos'è la femmina arrabbiata. Dunque, se non volete, pazienza vi vorrà. Cercar dovrò uno che non sappia dir di no. Cara, venite qui. Anch'io dirò di sì. Ma lo farete poi. Tutto farò quel che volete voi. Tenete questa spada. Sì, la tengo. E quando Cinzia viene? E quando Cinzia viene? Cacciargliela nel seno. Ebbene. Lo farete? Lo farò. E poi mi ingannerete? Signora no. Avrete coraggio? Come un marte. Caro il mio graziosino, voi sarete il mio marte. Anzi, Martino. Yeah. so cosa mi far, se vil mi rendo, la mia diletta offendo, e se mostro bravura, la mia poltroneria scopro addirittura. Ma qui vi vuol coraggio, finalmente una donna non mi può far timore. Graziosin, ora è tempo, animo e core. Son di coraggio armato, son tutto furibondo, son tutto furibondo. E venga tutto il mondo, tutto il mondo, tutto il mondo, che io lo trafiggerò. Sì, sì, io lo trafiggerò. Sì, sì, io lo trafiggerò. Ma se la donna bella, pietosa mi favella, io non la scalderò. E se ella mi minaccia, ti morrò da meno. E se mi dai la faccia, allor me ne anderò, allor me ne anderò, sì, me ne anderò, sì, me ne anderò, me ne anderò, me ne anderò. Son di coraggio armato, son tutto furibondo, son tutto furibondo, e venga tutto il mondo che io lo trafiggerò, e venga tutto il mondo che io lo trafiggerò, venga, venga, sì, sì. Ma se la donna bella, pietosa mi favella, io non l'ascolterò. E se la mi minaccia, ti morrò davvero. E se mi dai la faccia, allor me ne anderò, allor me ne anderò, sì, me ne anderò, sì, me ne anderò, me ne anderò, me ne anderò. Io mostrerò bravura, sin tanto che potrò, ma quando avrò paura, allora fuggirò. Bravura, bravura, bravura, bravura, sin tanto che potrò, ma quando avrò paura, allora fuggirò, allora fuggirò. Son di coraggio armato, son tutto furibondo, son tutto furibondo, e venga tutto il mondo, tutto il mondo, tutto il mondo, che io lo trafiggerò. Sì, sì, io lo trafiggerò. Sì, sì, io lo trafiggerò. Ma se la donna bella, pietosa mi favella, io non la ascolterò. E se ella mi minaccia, ti morrò davvero. E se mi dai la faccia, allor me ne anderò, allor me ne anderò, sì, me ne anderò, sì, me ne anderò, me ne anderò, me ne anderò. Son di coraggio armato, son tutto furibondo, son tutto furibondo, e venga tutto il mondo che io lo trafiggerò. E venga tutto il mondo che io lo trafiggerò, venga, venga, sì, sì. Ma se la donna bella, pietosa mi favella, io non la ascolterò. E se ella mi minaccia, ti morrò davvero. E se mi dai la faccia, allor me ne anderò, allor me ne anderò, sì, me ne anderò, sì, me ne anderò, me ne anderò, me ne anderò. Signora, per pietà! Perfido indegno! Troverete il mio sdegno! Sì, uccidetemi! Morirò se la morte mi abbravate! Ma me la crudeltà non comandate! Dov'è la spada mia? Io l'ho gettata via! Per qual cagione? Perché mi fan le donne compassione! Ma dov'è la mia spada? Ah, crudele! comando. Andate giù di mondo, ma vendi di tutto cuor. Ma che crudel comando, che mi ferisce il cor, che mi ferisce il cor. Ecco la mia divina, son pieno di valor. Non fate che più che dica, ma che mi trema il cor. Indace, fermate, vi appresto, aspettate, cialone, pietà, poltrone, son qua. Dispetto, dispetto, dispetto, dispetto, furor, dispetto, furor, dispetto, furor. Segno qual ira, qual furia vi spira? Che cosa ho fatto io, ferita? Ah, fermatevi, Tu sei un'indegna, se non maledetta, vendetta, vendetta, contro di te, ferita. Fermate, sentite, sentite, fermate, fregarmi non so. Vendetta, vendetta, vendetta farò. Che cosa ho fatto io? Qual segno, qual ira? Tu sei un'indegna, tu sei un'indegna. Sei tu maledetta, sei tu maledetta. Qual segno, qual ira? Ferita! Fermatevi! A barbaro!